Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Benvenuti e benvenute a Mebius. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Allora, siamo stati a EMO, grande fiera internazionale mondiale delle macchine, dell'automazione, c'è ogni due anni nel mondo e quest'anno è toccata all'Italia, a Milano. Oh sì, abbiamo realizzato una bella intervista, ma ci sarà spazio in trasmissione anche per parlare ampiamente dei Nobel che sono stati assegnati questa settimana. A noi competono quello della fisica e della chimica e quindi di quelli e vi di parleremo. Ciò parleremo. Partiamo. Va bene. Io qui fra le mani, oltre ad averlo indosso, una cuffia, e però qui di fronte a noi, Chiara, c'è anche un signore. Come sì, è venuto a trovarci qui nel nostro stand appunto a EMO, la fiera mondiale della macchina utensile e dell'automazione, Antonio Faccio, quindi benvenuto qui a Mebius. Lei è Managing Director di GF Machine Solutions, adesso le faremo spiegare in due parole magari di che cosa si tratta e poi arriviamo subito all'oggetto che è in mano Federico. Sì, io tengo sempre la cuffia in mano, ma perché c'entra con quello che diremo, però questa azienda che è... La società è svizzera, buonasera a tutti, la GF fa parte del gruppo Georg Fischer, multinazionale svizzera con più di 200 anni di storia. La nostra divisione GF Machine Solutions si occupa di vendere macchine e non solo, come il nostro nome, ma di vendere soluzioni ad alto contenuto tecnologico. E adesso infatti ci arriviamo. Veniamo al punto. Non siamo qui per parlare nello specifico di questa azienda, ma... Di che cosa esattamente? Del fatto che questo tipo di aziende oggi stanno rivoluzionando i sistemi produttivi. Per certi versi potremmo dire che sono, come dire, le pattuglie avanzate della fine del fordismo, no? Sta proprio cambiando che cos'è la fabbrica. Però dicevamo prima, Chiara, che oltre a averle in testa... Le cuffie che indossiamo, allora, ne abbiamo uno qui in mano adesso e gli ascoltatori probabilmente le indosseranno sapete, anche. Sapete, no, come è fatta una cuffia. Allora ci sono le due orecchie della cuffia. Gli auricolari, gli diciamo. Gli auricolari, poi c'è l'arco, il ponte che li tiene insieme. Però poi ci sono tanti altri piccoli aggeggini, gli innesti per i cavi. Noi abbiamo anche il microfono che ci viene davanti alla bocca. Tanti elementi metallici e tanti elementi ovviamente di plastica o di altri materiali. Diciamo che potrebbero essere una trentina in tutto. Forse anche di più, sì. Allora facciamo un passo indietro e diciamo una cosa di questo genere fino ad oggi com'era fatta? Com'è che la si costruiva? E non solo le cuffie, tanti altri oggetti fatti, certo, di tanti pezzi. Come si faceva? Il processo tecnologico per costruire un oggetto come la cuffia è quello di dividere le lavorazioni meccaniche per tipologia, quindi ci sono delle lavorazioni di fresatura, delle lavorazioni di elettroerosione, delle lavorazioni di tornitura, avere dei tecnici specializzati nella singola tecnologia e poi alla fine unire i manufatti che vengono realizzati sulle singole macchine al termine, unirle e creare quello che possiamo chiamare uno stampo, ossia un componente complesso che ha la forma negativa della forma che vogliamo utilizzare. Generalmente lo stampo è composto di due parti, la parte inferiore e la parte superiore, e una volta che viene messo su una macchina dedicata per il settore plastica, può essere una pressa di iniezione, accostando le due parti con una certa pressione, alla fine otteniamo fuori il pezzo. E okay. Quindi erano tante isole. Erano tante isole con anche tante professionalità, tante persone che con delle specifiche compiti assolvevano questo compito. E il problema è che il mondo ci sta chiedendo delle soluzioni sempre più produttive, i nostri costi aumentano, noi vogliamo, essendo in Italia, avere delle soluzioni economicamente vantaggiose, quindi l'italiano è costretto a innovare utilizzando delle tecnologie che sono a sua disposizione. Quindi fino a qualche anno fa voi producevate in qualche modo la macchina, la singola macchina che faceva il singolo compito. Adesso la cosa sta cambiando ed è qui insomma lei a raccontarci queste soluzioni intelligenti. Diciamo che l'azienda, il gruppo sta cambiando un modello di business, come vi ho detto prima, noi ci occupiamo di vendere macchine utensili, però ci stiamo trasformando dal vendere la singola macchina, vogliamo vendere la soluzione. Cosa significa? La soluzione, prendendo ancora e partendo dalla cuffia, possiamo vedere un esempio pratico al nostro stand, di una realizzazione di uno stampo per cuffia completamente automatico. Cosa c'è di nuovo nella parola automazione? Nella parola automazione di per sé non c'è granché di nuovo, perché l'automazione viene usata già da anni. Se prendiamo il settore automobilistico, l'elettronica, dove ci sono tantissimi componenti, quindi diventa semplice associare un compito ripetitivo a un automa. Sì. Noi cerchiamo di far qualcosa in più, vogliamo spingerci oltre, vogliamo portare l'automazione nel momento in cui dobbiamo realizzare un pezzo che viene utilizzato una singola volta. Quindi un pezzo non di facile realizzazione, perché i pezzi realizzati con le nostre macchine sono estremamente complessi, quindi richiedono apparecchiature e persone e professionisti con un livello di specializzazione estremamente elevato. La nostra sfida è di mettere tutto insieme, puntare sulla tecnologia, quindi sull'automazione, ma applicarla dove prima nessuno aveva provato a applicarla. Però finiscono le isole e ci sono una serie di macchine che dialogano fra loro, quindi sono connesse, e che fanno tutti gli stampi uno dopo l'altro. C'è una specie di stampone finale che è fatto di tanti stampi, e tutto questo processo lo fanno in le macchine da in sole. Automatico, quindi anche più velocemente, immagino, e anche dal punto di vista della qualità e dal punto di vista, insomma, poi della qualità, certo, finale del pezzo e di tutto il processo è più elevata. Ora, viene migliorata la stabilità della qualità, nel senso riusciamo a mantenere una qualità costante elevato. Nel tempo, perché okay. Quando abbiamo la presenza dell'uomo, anche qua parliamo sempre di figure altamente professionali, può capitare che in un determinato momento, per qualsiasi motivo, ci sia una piccola disattenzione, e questo potrebbe creare un problema di qualità. Sì. Affidandoci delle macchine e integrando nella nostra isola delle macchine di misura, quindi vanno a misurare tutti i pezzi che vengono prodotto, tutto viene monitorato, tutto viene certificato, quindi questo sistema è in grado di assicurare una qualità nel tempo. E questa infatti è una caratteristica estremamente importante. Questo è un po' il punto di forza, nel senso che oltre alle singole macchine che comunicano tra loro, c'è anche questo, che riescono a comunicare con una sala di controllo, per cui riusciamo a capire immediatamente se c'è un problema e a risolverlo in tempo reale. E qua, diciamo, c'è l'altra novità o l'altra sfida, nel senso che noi siamo dei bravi costruttori di macchine, di macchine di precisione, alto contenuto tecnologico. Stiamo portando quello che è già conosciuto in altri settori, parliamo dell'information technology, nella programmazione, nel mondo della realtà virtuale, della simulazione. Vogliamo integrare questo processo che viene prima della lavorazione, però la cuffia per esempio viene progettata da un designer che ne studia la forma, ne studia le caratteristiche funzionali, quindi conosciamo già tutto prima. Noi non facciamo altro che mettere insieme questa componente informatica, che possiamo ipotizzare come la testa, con la nostra macchina, che non è nient'altro che le braccia le gambe, il muscolo, l'attuatore, e unendo queste due competenze che fino ad oggi in qualche modo erano separate, noi le stiamo unendo, e qua è un po' la novità. Però poi alla fine vengono fuori tutti i pezzi, no? E c'è un assemblaggio, questo invece l'ha messo insieme, rimane all'uomo? Allora, anche qua tutti i processi produttivi poi devono avere un'economicità, quindi dobbiamo valutare il valore aggiunto delle singole operazioni, e l'operazione di assiemaggio dello stampo di collaudo è un'operazione estremamente delicata, dove cercare di automatizzare questo processo avremo un costo, diciamo, non competitivo, quindi in qualche modo rimane ancora importante. Il know-how, insomma, dell'essere umano serve. Quindi noi in genere l'operatore con il maggior grado di specializzazione e di esperienza, sono figure che hanno anni e anni di esperienza, svolgono il compito finale di assiemare il tutto e di preparare lo stampo per... Qua diminuisce nella filiera delle macchine tutta la manodopera che c'era nelle isole, però lei ci diceva, per preparare appunto questa intervista, che invece voi avete bisogno di fuori tecnici, emergono delle professionalità lì nuove. C'è da lavorare con la testa umana. Anche al nostro interno, nella nostra azienda, stiamo in qualche modo cercando di assumere o di convertire determinate figure professionali che sono più dedicate alla conoscenza specifica tecnica della macchina a conoscenze di tipo informatico, quindi abbiamo la necessità di avere sempre una particolare attenzione a tutto quello che è la programmazione e la simulazione virtuale. Questa sta entrando nel mondo dell'industria in modo preponderante. Grazie Faccio, davvero buon lavoro. Grazie mille anche a voi, grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ma perché il DNA si rompe? Questa è una bella domanda. Perché? Più che altro sappiamo che si ripara. Questo è più utile. Questo è utile. È importante. E per la riparazione del DNA, insomma, è stato attribuito il Nobel, e che è stato riconosciuto a 3 scienziati, appunto, lo abbiamo detto in apertura, questa è stata la settimana dei Nobel che ci competono, quindi quelli scientifici. Partiamo con quello della chimica, che intanto è stato assegnato a, adesso provo tentiamo a pronunciare i nomi dei Nobel, che appunto avrebbero bisogno di un Nobel soltanto 3.000 per la pronuncia, Thomas Lindahl, che è uno svedese, Paul Modric, che invece è uno statunitense, e Aziz Sankar, che nasce in Turchia ma è naturalizzato, insomma, americano. Loro avrebbero in qualche modo fatto delle ricerche, insomma, sui meccanismi di riparazione del DNA, ma forse prima dobbiamo partire dal fatto che questo DNA si rompe. Carlo Alberto Redi è qui con noi questa sera, benvenuto. Buonasera a tutti gli ascoltatori e da voi. Biologo dell'evoluzione all'Università di Pavia. Bentornato, perché è già stato nostro ospite più volte. Da cosa partiamo? Dal fatto che il DNA può rompersi? Beh, direi che è il prerequisito concettuale necessario, perché se diamo il Nobel a chi ci spiega come ripararlo, certamente è questo il punto. E direi che può essere intuitivo e facile a intendersi. Proviamo a immaginare di avere una cellula, il suo nucleo contiene tutto il DNA, proviamo a immaginare di estrarlo e di disporre questa doppia elica, come ci hanno spiegato Watson e Crick ed altri, lungo un tavolo. Ebbene, stiamo parlando nel genoma umano, nel DNA umano, di 11 metri di DNA, se lo mettiamo dolcemente, se lo distendiamo, verrebbe una scala praticamente di 11 metri. È chiaro che in ogni secondo del tempo della nostra vita questa molecola va a duplicarsi per mantenere in vita tutte le nostre cellule. Chi lo fa più velocemente, chi più lentamente. Ora immaginiamo di dover distaccare le due eliche della doppia elica, allontanarle l'una dall'altra, e poi arrivano dei piccoli lavoratori che inseriscono e appaiano la nuova elica per dare due doppie eliche. Beh, è un processo che occorre in una velocità tale e tante di quelle volte che penso sia intuitivo che ci possa stare una rottura intrinseca al meccanismo. Certo. Non parliamo poi se ci sono invece agenti che hanno la capacità di rompere. Proviamo a pensare agli agenti fisici, gli ultravioletti ad esempio, legati al lavoro di Sankar, o altre sostanze chimiche, quelle che chiamiamo xenobionti. A quel punto è chiaro che il DNA va incontro a rotture. Certo. Ma sono rotture, come dire, catastrofiche, oppure sono rotture regolari, insomma, che ci possono stare? No, quelle intrinseche, per nostra fortuna, non sono catastrofiche, perché sono degli errori, chiamiamoli, di sistema dovuti alla complessità del processo, come ho ricordato. E in ambito evolutivo si sono sviluppate degli altri piccoli lavoratori, degli altri enzimi, gli enzimi del riparo, se vogliamo fare la metafora delle forbici e delle pinze e degli aghi per cucire, che sono poi le molecole e i meccanismi messi in evidenza da Modric e Lindahl nei meccanismi intrinseci. Evolutivamente non saremmo qui se la selezione non avesse prodotto anche, per nostra fortuna, molecole capaci di intervenire laddove c'è una rottura, tagliare, sostituire, aggiungere, eliminare, fare tutte queste operazioni. Ecco, ma Redi, vuol dire che c'è un grande meccanismo complesso e tremendamente intelligente che si può rompere, si può riparare, le cose vanno avanti comunque su miliardi e miliardi di pezzi. Però non c'è dubbio. Però abbiamo l'esigenza, e l'avevamo e siamo riusciti a trovare il modo, di riparare. Quali sono le situazioni in cui dobbiamo riparare? Certo, è utile farlo? Certo, questo è un aspetto di cui possiamo ora dare il quadro analitico, ma che gli ascoltatori avranno immediatamente capito ha un risvolto biopolitico, ha un risvolto filosofico alla fine, nel senso che in termini analitici ci sono delle rotture che abbiamo capito possono essere artificialmente riparate da noi, volutamente, nel senso ci sono rotture che non vengono corrette perché anche gli enzimi della correzione sono colpiti, sostanze mutagene, cancerogene sono in grado, ad esempio, di rompere completamente questo equilibrio tra rotture fisiologiche e interventi di riparazione e si arriva alla crescita neoplastica. Ora, l'aver capito quali sono quelle molecole che agiscono fisiologicamente ci permette di sviluppare delle strategie di intervento per riprodurre artificialmente le correzioni che desideriamo. Questo è un aspetto fantastico, nella motivazione è ricordato, soprattutto legato al lavoro di Sankar, che i loro lavori pongono le basi per ricerche che porteranno ad avere chiaramente l'opportunità di intervento, perché ora abbiamo capito che sono coinvolti nei meccanismi di cancerogenesi, nei meccanismi di non corretta riparazione, e quindi avremo l'opportunità di sviluppare degli interventi artificiali, delle medicine, delle tecniche per correggere. A quel punto però bisognerà che i filosofi e la biopolitica e il decisore politico e i cittadini siano chiamati a dire: ma possiamo fare il passaggio successivo? Cioè, laddove abbiamo gli strumenti e abbiamo ancora una situazione patologica sulla quale possiamo intervenire, cioè fare geneticamente, possiamo farlo, ecco. Si chiama editing del genoma. Io sono convinto che nel breve volgere avremo dei Nobel dedicati a chi ha scoperto i sistemi di cui sto parlando. Però, insomma, Reddy ci ha fatto capire l'importanza comunque di queste ricerche e ovviamente delle prospettive che si aprono, diciamo, abbastanza imminenti. Grazie Reddy e buon lavoro. Grazie a voi e agli ascoltatori, buonanotte. Dopo la chimica, la fisica. Proverò, come per la chimica, a pronunciare i nomi, i Nobel per la fisica di quest'anno, che sono il giapponese Takaaki Kajita, spero di aver pronunciato bene, e Arthur B. McDonald, molto più semplice, che è canadese. La motivazione è l'aver scoperto l'oscillazione dei neutrini e qualcosa sulla loro massa. È un terreno abbastanza complicato da raccontare e da affrontare per radio. Però ci proviamo. Con Fabio Bellini. Fabio Bellini, buonasera. Buonasera. Docente all'Università Sapienza del Dipartimento di Fisica. Allora, noi vorremmo chiederle in particolare di spiegarci com'è che si vedono, tra virgolette, questi neutrini, come è possibile rintracciarli. Noi qui, mentre stiamo parlando, siamo attraversati da svariati miliardi di neutrini, quindi questo è già abbastanza suggestivo. Però ci dica qualcosa prima in generale sul Nobel. Il Nobel assegnato a questi due ricercatori sancisce un successo straordinario per la fisica delle particelle, in particolare per la fisica del neutrino, che rappresenta anche uno dei filoni fondamentali della fisica in Italia. Queste due scoperte hanno chiarito il quadro di un puzzle che da diversi anni non alimentava la curiosità dei fisici, e hanno trattato due aspetti complementari dello stesso fenomeno hanno utilizzato una tecnica sperimentale simile con alcune differenze, e in particolare l'esperimento in Giappone ha chiarito la situazione delle quelle che si chiamano oscillazioni di neutrino per i neutrini prodotti nell'atmosfera, mentre invece l'esperimento in Canada ha chiarito il puzzle dei neutrini che provengono dal Sole. Io poco fa dicevo, siamo attraversati da svariati miliardi di neutrini. Allora, ci arrivano dal sole, dallo spazio, e sono vedono la Terra come se fosse neanche acqua, cioè gli passano attraverso. C'è un problema di riuscire a rintracciarli in qualche modo, a vederli in qualche modo per poterli studiare. Ci sono due grandi meccanismi, no? Sui quotidiani, anche in televisione è apparso molto quello giapponese, che ha un nome suggestivo, Kamiokande, che è una specie di grande sfera con acqua purissima che si trova a 1 chilometro di profondità. E poi c'è invece anche un altro esperimento, riesce, che se non sbaglio Bellini è ancora più decisivo, no, per maneggiare queste particelle. Riesce a spiegarci com'è che si fa, appunto, a entrare in relazione con questi oggetti? Allora, i neutrini sono stati scoperti ormai 50 anni fa, ma sono così elusivi che ancora molte delle loro caratteristiche ci sono ignote. In particolare quello che sappiamo è che sono privi di carica elettrica e quindi non interagiscono come la maggior parte della materia che conosciamo. Non hanno anche non interagiscono attraverso quella che viene detta cosiddetta interazione forte, e quindi hanno solo l'interazione debole, e questa interazione debole fa sì appunto che loro vedano la Terra in maniera completamente trasparente. E come si fa a rivelarli? Beh, la chiave del successo risiede in diversi fattori. Uno è, bisogna costruire dei rivelatori molto molto grandi e molto massivi, in maniera tale che uno riesce a catturare uno di questi neutrini che ogni tanto passa. La seconda chiave è che questi neutrini sono molto molto molti, molti. Noi sappiamo, come ha detto lei, che circa 100 miliardi di neutrini al secondo al centimetro quadro ci attraversano e provengono dal Sole, e ce ne sta un numero altrettanto abbondante che invece viene dalle interazioni dell'atmosfera. Questi esperimenti devono essere condotti in luoghi in cui niente può mimare il segnale che noi stiamo cercando, ed è il motivo per cui vengono condotti all'interno delle miniere o sotto le montagne. Addirittura l'esperimento in Canada è 2 chilometri sottoterra in una miniera di carbone che è ancora attiva. Ecco, non dimentichiamoci anche i nostri laboratori sotto il Gran Sasso. I laboratori del Gran Sasso, che sono i laboratori più grandi, sotterranei, più grandi al mondo, e che si trovano sotto il massiccio del Gran Sasso, hanno quindi circa 1500 metri di roccia sopra, e che conducono esperimenti che hanno confermato proprio i risultati che sono stati ottenuti da questi due esperimenti che hanno vinto il Nobel. Allora, come si fa a rivelarlo? Questo neutrino, sostanzialmente, quando passa attraverso il rivelatore, questi rivelatori sono fatti di acqua normale, acqua, diciamo, quello in Giappone, e acqua pesante, quello in Canada. L'acqua pesante è l'acqua normale in cui all'idrogeno viene sostituito un isotopo dell'idrogeno, che è il deuterio. L'idrogeno è il nucleo più semplice che esiste in natura, è formato da un protone. Il deuterio invece ha un protone e un neutrone. Questa è l'unica differenza, diciamo, nel rivelatore. Quando il neutrino passa, capita che ogni tanto ognuno di questi neutrini interagisca con un elettrone del mezzo. Cioè, in qualche modo si scontri. Si scontra, fa un urto come se fossero due macchine. L'elettrone si muove, e quando l'elettrone si muove, e si muove abbastanza velocemente, si ha dell'emissione di luce, normale luce, che viene chiamata luce Cherenkov, e che viene prodotta quando una particella carica si muove all'interno di un mezzo con una velocità maggiore della velocità della luce in quel mezzo. Però in queste, per esempio, queste grandi sfere piene d'acqua, non è che quando poi si va a vedere si è come con migliaia di neutrini, no? Che è abbastanza raro, insomma, È raro, infatti questi esperimenti devono essere molto grandi e devono prendere dati per molti anni per accumulare un numero di eventi sufficienti, diciamo, per accertarsi, diciamo, che effettivamente... Però prima dicevamo che abbiamo miliardi per centimetro quadro. Quindi è il rapporto col caso che sembra veramente impressionante, cioè nonostante ci sia questa enorme densità, la possibilità che un neutrino impatti su un elettrone è molto rara. È molto piccola, se considera questi esperimenti, un esperimento come Super Kamiokande in Giappone, che è una tanica d'acqua alta 40 metri e è un cilindro alto 40 metri con un diametro sempre di circa 40 metri, quindi un oggetto enorme. Alla fine vede circa un evento al giorno, però per fare una misura. Questo evento avviene, appunto, succede questa cosa di cui ci stava raccontando. Con un elettrone, l'elettrone si mette in moto, e quando si mette in moto emette della luce. Emette dei dischi di luce. È un fenomeno simile a quello che succede a un jet quando supera il muro del suono, e che crea questo cono, e noi sentiamo l'onda d'urto. E lo stesso avviene con la luce. E questa luce viene rivelata dai particolari rivelatori che sono posti tutto intorno a facciate, diciamo, chiamano al rivelatore, che si chiamano fotomoltiplicatori e che sono i rivelatori che convertono il segnale luminoso in un segnale elettrico che poi può essere analizzato. E dal segnale riusciamo a studiare. Segnale, uno riesce a capire se effettivamente quello che è passato è un elettrone, è un neutrino che ha prodotto un elettrone, o seppure è un neutrino di tipo differente. Infatti esistono tre tipi di neutrini differenti che hanno una loro identità che noi chiamiamo sapore, e sono il neutrino di tipo elettronico, il neutrino di tipo muonico e il neutrino di tipo tauonico. Non c'è nulla di semplice. No, e tra l'altro, se non sbaglio, questi bizzarroni possono passare da una all'altra identità. Da uno stato all'altro. No? Esattamente, possono trasformarsi nel loro viaggio, possono cambiare d'abito. E voi riuscite a vederlo perché emettono un flash, una luce diversa a seconda di quale sia il sapore. Per esempio, quando un neutrino tipo elettronico fa questi urti, produce per esempio un elettrone, e l'elettrone fa un percorso a zigzag dentro l'acqua, e quindi uno vede questo cono di luce, in realtà lo vede un po' sfocato. Quando invece viene prodotto un muone è come un elettrone, ma è una particella molto più pesante che viaggia in linea retta, e quindi uno vede un bel cono molto chiaro. Insomma, usando un linguaggio poliziesco, si potrebbe dire che finalmente li abbiamo incastrati, perché erano veramente bizzarri e perversi. Non è finita, è solo l'inizio, perché nonostante queste scoperte abbiano dimostrato questo fenomeno che è chiamato oscillazione dei neutrini, che è possibile solo se i neutrini hanno massa, non sappiamo quale sia il valore ancora di questa massa. Quindi diciamo che è questo l'arduo lavoro su cui siete chiamati a lavorare. Assolutamente sì. E questo è un tema caldissimo, e non solo, ha riportato alla luce una vecchia questione che addirittura risale ai tempi di Majorana, su quale sia la natura della massa del neutrino. Che il neutrino è l'unico particella elementare, l'unico fermione elementare che potrebbe essere diverso da tutti gli altri fermioni ed essere l'antiparticella di se stesso, come fu ipotizzato da Majorana nel 1930. Ma qui stiamo entrando nella psicanalisi, insomma. Proviamo anche con la psicanalisi, provate anche. Va bene, grazie mille Bellini, prego. Buon lavoro, buona ricerca. Grazie, arrivederci. Dovete andare assolutamente a vedere una cosa. Ah sì, dovete andare sul nostro blog, che trovate sempre in home page di www.radio24.it, il nostro blog di Mebius, perché abbiamo pubblicato un video che abbiamo realizzato a Emo, l'abbiamo pazzesco. Detto, la fiera dell'utensile dell'automazione, in cui Mats Valk, che è un bravissimo campione di speed cubing olandese, cioè colui che sa risolvere in 8 secondi netti il cubo di Rubik. Anche è veramente una mano sola. Impressionante. Impressionante. Per questa settimana è tutto. Buona settimana a tutti e a tutte. Ciao.